4. Il 3 agosto re e armata erano dunque alle porte di Milano. La notizia del loro arrivo si sparse subito in città e la gioia e la fiducia sembrarono ricomparire. Il re ci vuole difendere davvero, dunque, non ci abbandona, Dio lo ricompensi, erano le parole che correvano su tutte le bocche. Si aspettava però che un comunicato ufficiale informasse la popolazione dell'arrivo e dei propositi del re. Ma trascorsa metà della giornata senza che ci fosse stato nessun proclama, la diffidenza rientrò in tutti gli animi. Ma veramente il re alle nostre porte? Se è così, perché si nasconde? Perché ci lascia nell'incertezza? Perché non ha fiducia in noi? Chi deve difendere le nostre strade, le nostre piazze, le nostre case? Chi starà dietro le barricate? Non ci staremo forse noi? E allora, perché non farci sapere quello che succede? Perché non dirci che cosa dovremo fare? A parlare così, come accertai di persona, non era soltanto la classe media, ma anche il popolo. Volevo sapere quale fosse l'orientamento delle classi inferiori, che l'alta società milanese supponeva abbastanza indifferenti, e girai nei quartieri più poveri, entrando nelle case più umili, interrogando operai isolati e ascoltando quello che si diceva per le strade, nei crocchi. Dappertutto raccolsi le stesse risposte, conobbi in tutti il medesimo sentimento, il violento desiderio di farla finita con gli austriaci e la piena fiducia in un esito favorevole, frammista una vaga diffidenza nei confronti dei capi dell'esercito piemontese. Che faranno quelli là? Domandava un uomo sui 50 anni, di taglia atletica, sul cui volto c'era un singolare miscuglio di furbizia e di gioviale bonomia, uno di quegli uomini nati per diventare quel che gli italiani chiamano un capopopolo e che quel giorno era già attorniato da un gruppo di ascoltatori entusiasti. Che faranno quelli là? Riprendeva ammiccando e accennando con un movimento della testa verso Porta Romana. C'è qualcuno o non c'è nessuno lì? Sono tutti muti, che non ci dicono niente. Eppure saranno i soldati i primi a dover cominciare. Noi resteremo alle barricate. I soldati dovranno tenere occupati per qualche giorno gli austriaci, prima che venga il nostro turno. Allora, se tutti saranno stati ai patti, ci vedrete all'opera. Demoliremo pietra a pietra le nostre case per scagliarle sugli austriaci, se occorrerà, e faremo montagne con i nostri corpi per impedire loro di passare. C'era un pensiero comune nella mente di tutti. Una specie di fatalità avrebbe ricondotto gli austriaci negli stessi luoghi dai quali erano stati cacciati e dai quali erano fuggiti con tanto spavento, e un medesimo grido usciva da tutte le bocche. Qui la guerra è cominciata e qui deve finire. Noi abbiamo dato il primo colpo e noi daremo l'ultimo. Accertato che il morale del popolo era alto, mi recai al comitato di difesa per indurlo a pubblicare un proclama che facesse conoscere ai milanesi le decisioni del re e del governo. I provvedimenti presi per assicurare la difesa della città, le risorse su cui Milano poteva far conto, la misura in cui si sarebbe fatto appello alla collaborazione del popolo. Mi fu promesso che il consiglio sarebbe stato eseguito. Ero ancora al comitato quando parecchie persone vennero a fare la stessa richiesta e ottennero la stessa risposta. Qualcuno mi disse che c'era da temere un malinteso tra il re e il popolo, cioè che al popolo si dicesse che il re non voleva difenderlo e che si dicesse al re che il popolo non si sarebbe battuto. Mi resi conto che era necessario mettere in guardia il re contro falsi rapporti e tentai di farlo. Il re aveva momentaneamente fissato la sua residenza in un piccolo albergo presso la città. La sera stessa ci andai e esposi lo scopo della mia visita al conte Cesare Trabucco di Castagnetto, suo segretario. Dopo avermi ascoltato attentamente, il segretario mi disse che in effetti parecchie persone avevano avvisato il re che la popolazione di Milano non voleva combattere e aggiunse che presto sarebbe venuto il momento in cui si sarebbe visto chi aveva ragione. Il re, mi disse, difenderà Milano a tutti i costi. Non è ammissibile dubitarne dal momento che ha preferito venire qui, anziché ritirarsi oltre il Ticino. Me ne andai, incaricandolo di riferire al re la mia soddisfazione per la giusta decisione, ripetendo che ne dipendeva la tranquillità pubblica. Il comitato di difesa aveva speso l'intera giornata a fare affluire in città viveri e munizioni da guerra e aveva chiamato operai e soldati dalle campagne. La piccola città di Monza e quelle di Como, Lecco e Varese ci avevano mandato le loro guardie nazionali. E sapevamo che le popolazioni delle montagne vicine erano pronte a venirci in aiuto. I contadini dei villaggi che circondano Milano Arrivavano in folla per dare mano alle fortificazioni che si alzavano rapidamente. La vasta piazza d'armi che si apre davanti al castello era trasformata in un campo fortificato, con un reticolo di fossati, ridotte e palizzate. Anche i bastioni erano stati predisposti per sostenere e respingere l'urto nemico. Gli alberi che ne facevano un affascinante passeggio erano stati tagliati e trasformati in palizzate, e feritoie erano state praticate nei parapetti per far posto alle bocche dei cannoni. Le case erano state messe in assetto di difesa e i nostri principali edifici erano presidiati da massicce forze. Parecchie grandi sale dei palazzi Borromeo e Litta erano piene di proiettili e palle di cannone. Le polveriere, situate a poca distanza dalla città, erano state svuotate e il loro contenuto era stato portato nei depositi esistenti da tempo a Milano, poiché questi approvvigionamenti, per quanto consistenti, sarebbero potuti risultare insufficienti in caso di lungo assedio e di ripetuti attacchi, il comitato aveva fatto venire dalla Svizzera 60.000 chili di polvere da sparo. Le due o tre porte del settore della città che si trovava più esposto all'eventuale attacco nemico erano state chiuse e per maggior sicurezza murate. Le altre restavano ancora aperte e ci potevano quindi passare lunghi convogli di vettovaglie. D'altra parte, ogni famiglia appena agiata aveva fatto provviste per più di un anno. Il pensiero del superfluo era lontano dalla mente di tutti. Si deve ammettere che il comitato di difesa non aveva preso tutti i provvedimenti necessari in simili casi. Per esempio, non aveva fissato un maximum per il prezzo delle derrate di prima necessità. Essendo stata trascurata questa precauzione, il prezzo di quei generi, sin dai primi giorni dell'assedio, salì a livelli esorbitanti. Non mancava ancora nulla, ma l'improvviso aumento della popolazione, i saccheggi commessi in alcune province dagli austriaci, l'accaparramento di viveri da parte di privati, le strade ingombre e l'emigrazione dei contadini avevano causato un momentaneo squilibrio di bisogni e risorse. Sarebbe stato dovere del comitato impedire che questo squilibrio assumesse per la città l'aspetto di annuncio di una vera carestia. Purtroppo non si operò in questo senso e la negligenza aggravò le difficoltà che già pesavano su di noi. Il 4 agosto era stata fissata per le 6 del mattino una adunata della Guardia Nazionale. Il re, invitato a comparire, aveva rifiutato, con il pretesto, a mio parere abbastanza inconsistente, che si era ripromesso di non mettere piede a Milano se non dopo aver respinto gli austriaci al di là delle Alpi, e lo sostituì il generale Olivieri. Volli assistere a quella adunata e allo spettacolo che mi si offrì. Svanirono i tristi presentimenti che mi turbavano il giorno prima. Soltanto quelli che conoscono la piazza d'armi di Milano potranno farsene un'idea. Quando sboccai dagli ombrosi viali di Piazza Castello, tre dei lati dell'immenso quadrato che forma la piazza d'armi erano occupati dalla Guardia Nazionale Milanese e dalle truppe piemontesi rimaste di riserva o di presidio a Milano. Due terzi delle truppe erano composti dalla Guardia Nazionale, l'altro terzo era formato da soldati piemontesi. 33 bandiere indicavano le 33 parrocchie di Milano. I contadini, accorsi dai dintorni, erano riuniti in battaglioni e le guardie nazionali, inviate dalle città vicine, erano raggruppate per comuni. 38 pezzi di artiglieria, seguiti dai loro cassoni, ci rassicuravano sui mezzi difensivi di cui avrebbe potuto disporre la città, anche se fosse stata privata del sostegno del Piemonte. Tutti quelli che assistettero a quella parata ne tornarono pieni di fiducia. Quel giorno non c'erano meno di 30.000 guardie nazionali sotto le armi e parecchi capitani mi assicurarono che circa un terzo delle loro compagnie non aveva potuto prendere parte a quella manifestazione. Milano aveva dunque a difenderla quasi 50.000 uomini appartenenti alla Guardia Nazionale e c'era al loro fianco una popolazione compatta, uomini, donne e ragazzi, pronta a pagare il proprio debito alla patria. Mentre le truppe sfilavano in silenzio, sicure nel passo e nello sguardo, cominciò a tuonare il cannone. Ma nessuno parve farvi attenzione. Dalle 8 del mattino a mezzogiorno il rumore dell'artiglieria non smise di avvicinarsi e infine le bombe raggiunsero la città. Come spiegare questa sorpresa? Non l'ho mai saputo. Si diceva, il mattino del 4, che gli austriaci erano a 5 miglia da Milano, a poca distanza dal parco di artiglieria piemontese posto a Noverasco. Il re e il grosso dell'esercito piemontese erano accampati fuori Porta Romana e nei dintorni, appunto, dalla parte di Noverasco. Gli austriaci erano dunque potuti avanzare fino a Porta Romana senza incontrare i piemontesi e senza che i milanesi ne fossero stati avvertiti. Per quanto la cosa sembri impossibile, bisogna purtroppo ammetterla. Io stessa, essendomi diretta verso Porta Romana dalla parte da cui giungeva il rumore del cannone, ero stata testimone della fuga della popolazione, sorpresa dalle bombe nemiche, mentre lavorava alle barricate presso le mura. Corsi al comitato di difesa, se ne stavano tranquilli a redigere ordini del giorno e si rifiutarono lì per lì di credere che il pericolo fosse grave e imminente, come dicevo. Del resto, come si sarebbe potuto dare subito credito alle notizie che portavo quando si sapeva che l'esercito piemontese era ammassato dinanzi alle nostre mura? Ma presto ogni dubbio svanì. In un lampo la popolazione avvertita si preparò alla difesa. La Guardia Nazionale accorse compatta laddove il nemico aveva cominciato il bombardamento. Lo respinse, gli tolse 5 cannoni, fece 200 prigionieri e lo costrinse a retrocedere di 2 o 3 miglia. Intanto le campane, suonando a martello, annunciavano agli abitanti che Milano era in pericolo e chiedeva il loro intervento. Le larghe lastre delle nostre strade furono sollevate, come d'incanto apparvero barricate, formate con carrozze e masserizie delle case vicine. In certe zone si scavarono mine. Milano opponeva al nemico una massa di pietre, di proiettili, un dedalo di piccole cittadelle, fortini e ripari, di fronte a cui anche i migliori soldati avrebbero esitato. Le guardie nazionali erano rientrate in città al cadere della notte. Avevano visto il nemico, avevano sostenuto il suo fuoco, lo avevano costretto a retrocedere. Questo primo successo aveva accresciuto l'esaltazione della popolazione. Ci si ripeteva che gli austriaci avrebbero attaccato all'alba con tutte le forze, e la notte fra il 4 e il 5 parve lunga a tutti. Quella notte la Guardia Nazionale vegliò sui bastioni la popolazione presso le barricate. La città era illuminata. Il re si era infine deciso a entrare in Milano per sottrarsi, diceva, al pericolo di un attacco imprevisto ed era andato a stare a Palazzo Greppi, nella corsia del giardino, nel centro della città. Si seppe più tardi che una consistente parte dell'esercito aveva pure lasciato quella stessa sera le sue posizioni all'esterno della cinta delle mura per ritirarsi in città. La giornata del 5 era cominciata, ma il cannone non si faceva ancora sentire. Ognuno si chiedeva incerto che cosa significasse quel silenzio prolungato. Alcune persone dicevano che l'attacco non avrebbe avuto luogo che a mezzogiorno. E infine prese a diffondersi in città una vaga voce. Si diceva che il re avesse capitolato. I milanesi all'inizio si rifiutarono di prestar fede a una diceria così incredibile. I due sventurati che per primi la riferirono sulla piazza del mercato furono massacrati dal popolo, che li scambiò per provocatori austriaci venuti a seminare la discordia tra piemontesi e lombardi. Ma presto a ripetere quella spaventosa notizia furono mille e mille bocche e la nebbia si dissipò. La sorte riservata a Milano era orribile quanto ormai inevitabile. Le truppe piemontesi stavano per partire, anzi, già una parte dell'esercito si era messa in marcia. Tutti i nostri capi, civili e militari, erano scomparsi o stavano per seguire il re. Di lì a poco il popolo sarebbe rimasto solo in mano dei soldati di Radetzky, i quali sarebbero entrati quello stesso giorno alle 6 del pomeriggio. Rinuncio a dare l'idea della costernazione profonda che in un istante si impadronì della sfortunata popolazione cui si sottraeva così la vittoria prima ancora del combattimento. Noi eravamo tutti pazzi di dolore. Gli uomini piangevano, tenendo il volto nascosto tra le mani. Più abituate alle lacrime e meno vergognose di versarle, le donne correvano sperdute di strada in strada, da un crocchio all'altro, gettando urla di sgomento. I miei occhi hanno visto un vecchio, come folgorato dall'orribile notizia, cadere senza vita sul selciato che andò arrossandosi del suo sangue. Quel giorno ho sentito strani suoni, ho visto spettacoli che nessun delirio febbrile aveva mai presentato alla mia mente. Poi La disperazione fece posto allo sdegno. Si giurò di impedire al re di partire. Ci si promise di costringerlo a lacerare la capitolazione. Una moltitudine furente raggiunse Palazzo Greppi. Fino a qualche istante prima c'era lì a presidio un battaglione di carabinieri a cavallo, ma fu fatto andar via per evitare che facesse esplodere l'esasperazione popolare. E in un istante le carrozze del re e del suo seguito furono rovesciate e servirono a costruire barricate. Il palazzo fu accerchiato, invaso, interpellato da una deputazione della Guardia Nazionale. Il re rispose sconfessando la capitolazione. Poi seguì, riluttante, quegli inviati fino a un balcone, da cui parlò al popolo scusandosi di aver ignorato i veri sentimenti dei milanesi. Si dichiarò contento di saperli così risoluti alla difesa e prese impegno solenne di battersi alla loro testa sino all'ultimo sangue. Quando era comparso, gli erano stati esplosi contro alcuni colpi di fucile. Alle sue ultime parole il popolo ribatté con un grido: «Sai così, straccia la capitolazione!» Il re tolse allora di tasca un foglio, lo tenne sollevato in modo che il popolo potesse vederlo, poi lo lacerò. Tutta la città riseppe ben presto che la capitolazione era stata stracciata, che il re e l'esercito sarebbero rimasti. Esplose la gioia più accesa. La giornata passò di nuovo in preparativi di difesa e gli austriaci, che secondo i termini della convenzione sarebbero dovuti entrare quel giorno 5 in città alle 6 del pomeriggio, non comparvero. Sin dal giorno prima era stato messo a fuoco il sobborgo di Porta Romana per evitare che potessero cadere in mano al nemico costruzioni elevate, dall'alto delle quali esso avrebbe potuto sparare sui bastioni. Era un grande sacrificio fatto per la salvaguardia della città e dell'indipendenza nazionale, eppure fu consumato senza che si levasse una lamentela. E questo, benché nelle case dei sobborghi vivessero le famiglie più povere. Il giorno dopo l'incendio ancora continuava e anzi era stato appiccato a vari altri sobborghi. Il danno era valutabile a 8 milioni di lire austriache. La notte del 5 di nuovo strane voci si diffusero. Si diceva che le munizioni dell'esercito piemontese fossero state trasportate per sbaglio a Piacenza e che le truppe, non disponendo di polvere da sparo, si fossero inutilmente rivolte per ottenerne al comitato di difesa. Era un fatto privo di qualsiasi verosimiglianza e non perdo tempo a discuterlo. Si parlava di oggetti preziosi nascosti in uno dei palazzi nazionali e di un tentativo di saccheggio determinato da quella diceria, che era servito soltanto a provarne la falsità. Infine si assicurava, e questa volta non si sbagliava, che 68.000 fucili restavano sepolti nei depositi governativi. Ci si andò, furono trovati e un gran numero di cittadini si impadronì di quelle armi che ancora alla vigilia erano state negate al popolo, che reclamava a gran voce la leva in massa. Venne la notte e allora il re Carlo Alberto di Savoia non esitò ad abbandonare la città. Il colonnello La Marmora si calò in strada da una finestra di Palazzo Greppi, corse al luogo in cui il reggimento delle guardie e quello dei tiratori piemontesi avevano ricevuto l'ordine di attendere e li ricondusse al palazzo per proteggere la partenza di Carlo Alberto. I gruppi di cittadini che erano di fazione presso il palazzo fecero sforzi vani per trattenere il principe, il quale poche ore prima aveva giurato che mai avrebbe abbandonato Milano. L'ora era propizia, mezzanotte era appena passata. Alcune fucilate furono sparate dietro quel re che si allontanava, fuggendo, su un cavallo che non era il suo, dalla città in cui avrebbe dovuto entrare da trionfatore. Si seppe della partenza del re la mattina del giorno dopo, che era il 6, e la popolazione restò sgomenta. Il giorno prima, alla notizia della capitolazione, il popolo aveva reagito con una sorta di esaltazione parossistica. Questa volta si restò calmi. Una costernazione tetra, un abbattimento immedicabile fecero seguito alla collera. La situazione era in realtà disperata. Il re non era partito solo. Il governo provvisorio era stato a suo tempo sostituito da un commissario regio e dal comitato di difesa. Ora il commissario si era accodato al re e i membri del comitato, che il sabato mattina si erano presentati a Carlo Alberto per protestare contro la capitolazione, erano scomparsi. Tutti ci avevano lasciato nello stesso tempo: l'esercito piemontese, i battaglioni lombardi incorporati in quell'esercito, i reggimenti lombardi comandati dagli ufficiali piemontesi, i generali agli ordini di Carlo Alberto. Tutto era stato portato via. l'artiglieria piemontese, la nostra, le munizioni da guerra raccolte nella città e in ultimo anche i 4 milioni di lire frutto dell'argenteria offerta dai privati e dalle chiese. Il popolo andava di casa in casa cercando capi, di palazzo in palazzo, cercando munizioni, si rifiutava di comprendere l'estensione del tradimento, della sventura, non l'accettava. Ma già un inviato dell'armata austriaca giungeva ad annunciare che l'entrata del generale D'Aspre e delle sue truppe era fissata per mezzogiorno, che tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni sarebbero stati immediatamente arruolati nei reggimenti croati inviati di là dalle Alpi e che quelli cui fosse parso preferibile l'esilio avrebbero avuto tempo sino alle 8 della sera per lasciare la città. Quest'ultima soluzione fu adottata da molti, con sollievo in tanta sventura. Più di 2/3 degli abitanti, uomini e donne, giovani, anziani, ricchi, poveri, si diressero in massa verso la porta più lontana da quella che avrebbe dovuto aprirsi agli austriaci. Erano lunghe colonne di fuggiaschi di ogni età, di ogni sesso e di ogni condizione sociale. Tutti avevano con sé qualche oggetto personale, o tenevano a mano i figli, o trasportavano qualche malato che avrebbero avuto timore ad abbandonare al vincitore. Il passaggio di ogni colonna era annunciato da grida e gemiti. Qualche cavallo, alcuni carretti seguivano quelle bande fuggitive e trasportavano i più deboli e i più sofferenti tra i proscritti. Quando quella moltitudine desolata fu uscita dalla cinta delle mura, quando se ne fu allontanata di qualche centinaio di passi, si voltò un'ultima volta, quasi d'intesa, a guardare la città abbandonata come un'altra Gerusalemme. Il cielo era rosso sopra Milano. E nere colonne di fumo salivano alle nubi. Che era quel fuoco? Era l'incendio dei sobborghi non ancora spento? Era la vendetta degli austriaci già cominciata? Oppure la disperazione di qualche cittadino lo aveva spinto a giurare di non lasciare al nemico che ruderi fumanti? Parecchi palazzi a metà divorati dalle fiamme, quello del Genio Militare, quello della Dogana e l'ospedale militare di Sant'Ambrogio, portano nelle loro rovine la testimonianza di quel grande disastro. Ma la spiegazione dei fatti nessuno ha potuto darle, non si è fatta la minima luce su quell'enigma. E così gli austriaci erano per la seconda volta padroni di Milano. Rientravano da vincitori nella città da cui erano scappati in fretta 4 mesi prima. 25.000 soldati si erano impadroniti senza colpo ferire di una città che aveva per suoi difensori un esercito regolare di 45.000 uomini all'esterno e oltre 40.000 guardie nazionali dal di dentro. Poiché la capitolazione era stata lacerata, il generale D'Aspre avrebbe avuto il diritto di ordinare il saccheggio. Preferì, con tacita tolleranza, lasciare libero sfogo alle vendette e alle violenze isolate. I forzati di Porta Nuova ebbero la libertà, si unirono ai soldati per entrare nelle case ormai deserte e portarne via tutti gli oggetti di qualche prezzo. Dalle case passarono alle chiese, dalle chiese ai musei nazionali. I generali Rivaira e Roger, che lo stato di salute aveva trattenuto a Milano, furono condannati a morte. Poiché i decreti di confisca non potevano essere eseguiti secondo le regole, per mancanza di tribunali, di impiegati del fisco, soprattutto di tempo, per formalità, si fece ricorso a un sistema di contribuzioni forzate che prosciugò tutte le borse. La determinazione dell'imposta fu rimessa all'arbitrio di una commissione di cui era presidente il barone Sopranzi, direttore della polizia milanese, sotto il governo provvisorio. Il rifiuto del pagamento comportava la confisca dei beni. Nonostante le pressioni e le promesse del generale austriaco, nessun emigrato si è poi avvalso del permesso di ritornare nella città invasa. Dopo gli avvenimenti di agosto, quasi 100.000 milanesi si sono rifugiati nel Canton Ticino. Due membri del comitato di difesa, Restelli e Maestri, sono tra loro. E costituitisi in giunta insurrezionale, si sono aggregati un altro emigrato, Mazzini, il quale non è rimasto sorpreso per le nostre ultime sventure. Molti lombardi, quelli soprattutto che continuano a fondare le loro speranze sulla casa di Savoia, sono andati in Piemonte, dove hanno ricevuto un'accoglienza poco amichevole. Anche a Parigi, i lombardi, giunti a invocare il sostegno della Francia, Sono stati ricevuti con freddezza. Dappertutto calunnie ispirate dall'Austria hanno preceduto le nostre suppliche. A Torino e a Parigi i Lombardi sono presentati come un popolo pavido, egoista e fatuo. Proprio sotto l'impressione di accuse così dure e così immeritate ho preso la penna. I fatti che io mi sono limitata a raccontare fedelmente non si accordano per nulla, è evidente, con i racconti austriaci. Chiudendo questa breve storia della rivoluzione milanese, sento ancora il bisogno di ripetere che ho voluto difendere i Lombardi più che accusare coloro che ne hanno preparato la rovina. Ma non mi nascondo che il semplice riferire i fatti che sono appena accaduti in Lombardia getta pesanti sospetti sui principali attori in scena, proprio perché lo comprendo, proprio perché mi rincresce. Ritengo di dover ribadire alcuni punti a questo proposito. Se la guerra di indipendenza italiana si è conclusa con un tremendo disastro, non si può darne la colpa al mancato coraggio delle popolazioni. Bisogna prendersela con certi uomini, dei quali è più facile rilevare gli atti che chiarire le intenzioni. Il problema è tanto delicato che per quanto io mi astenga dal tentativo di darne la soluzione, voglio riferire la giustificazione degli accusati nei termini in cui la producono i loro più fedeli amici e facendolo vorrei potermi mettere in posizione di distacco, spogliarmi di ogni passione politica, non fare miei motivi di risentimento di nessun partito. Bisogna anzitutto riconoscere che gli errori del governo provvisorio hanno determinato gravi difficoltà al potere che gli è succeduto. L'eredità di quel governo, che aveva portato caos e sfacelo in ogni settore dell'amministrazione, non poteva non essere onerosissima per il generale Olivieri. È dunque doveroso assegnare gran parte della responsabilità delle nostre sventure a coloro che hanno gettato nella popolazione i primi germi di disunione e sfiducia. Quanto alle accuse che si muovono a Carlo Alberto, sono facilmente intuibili dal resoconto dei fatti. Ma bisogna ammettere che gli argomenti presentati in difesa del re di Sardegna meritano pure una certa attenzione. A quelli che spiegano la condotta del re con la diffidenza a lui ispirata dalle opinioni democratiche dei Lombardi, a quelli che non esitano a pronunciare la parola tradimento, i difensori di Carlo Alberto oppongono spiegazioni che hanno certo un loro valore, quali che fossero i timori ispirati al re dalle tendenze democratiche dei Lombardi, si osserva, è verosimile che egli abbia preferito tradire i milanesi piuttosto che cercare di combatterle. Non occorre forse una grande dose di coraggio per ordire un tradimento. E i pericoli cui si espone un traditore non sono i più gravi? Se il re del Piemonte non ha mai allontanato da sé i suoi generali, dicono, se non ha seguito un piano d'attacco più energico, bisogna darne la colpa soltanto al suo carattere debole e irresoluto. E in ultimo luogo, se ha capitolato, è stato perché egli non credeva che il popolo fosse disposto a combattere, soprattutto perché, avendo poca fiducia nell'esito dei suoi tentativi, temeva per Milano la collera di un vincitore che fosse entrato alla testa di una soldatesca sfrenata in una città presa d'assalto. I partigiani di Carlo Alberto portano poi un argomento cui non è facile rispondere. È l'odio stesso che l'Austria continua a dimostrare verso il re del Piemonte. Del resto l'Austria sarebbe risoluta a non cedere neppure un palmo del territorio che Carlo Alberto le aveva tolto e che ha dovuto ora restituirle per una infelice estensione del significato della parola armistizio. Chi solleverà il fitto velo in cui sono avviluppati questi avvenimenti? Chi si pronuncerà in ultima istanza sull'innocenza o sulla colpevolezza dei principali attori di questa triste scena? Per parte mia, ritengo che sarebbe fuori posto emanare la sentenza oggi, mentre il processo è ancora in fase istruttoria. Le parti interessate sono ancora sul proscenio, l'ultimo atto del dramma non è stato ancora recitato, non sappiamo quale sarà il suo scioglimento. Abbiamo da fare di meglio che accusarci o discolparci. C'è un solo accusato che non è lecito lasciare sotto l'ombra del sospetto, è il popolo, perché se il popolo è giudicato indegno della libertà, non può sperare di conquistarla. Finché durerà la guerra, ogni altro processo è rinviato. Finora i partiti non sono giunti in Italia allo scontro aperto, ma oggi occorre di più di questa tregua prudente, occorre una rafforzata unione. Non pronunciamo parole che potrebbero risvegliare passioni di parte. Diamoci la mano e riserviamo il nostro odio e la nostra forza per il nemico. Che dire ai generali sospetti, al re stesso? L'Austria non è forse in Lombardia? Carlo Alberto non ha un esercito da opporle? Non può ottenere domani una vittoria? E il liberatore d'Italia avrebbe bisogno di arringhe di difesa? Il Piemonte, non dimentichiamolo, è alla vigilia di riprendere le armi. I volontari lombardi, che hanno alla loro testa Garibaldi, attendono con impazienza il momento di riprendere la loro guerra di partigiani. Venezia ha proclamato per la seconda volta la Repubblica e sola in mezzo ai flutti di cui per tanti secoli è stata regina, difende la bandiera dell'indipendenza italiana. Sono forze che, se ben dirette, possono bastare a cancellare l'impronta dei nostri recenti disastri, senza parlare dell'influenza che la Francia mette al servizio della nostra causa e che senza dubbio non sarà esercitata invano nei prossimi negoziati. Speriamo dunque che l'onore d'Italia ottenga infine riparazione. Speriamo soprattutto che funeste divisioni non vengano più a intralciare tanti sforzi generosi e che la nostra indipendenza, una volta riconquistata, non sia più messa in discussione.